9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Anch'io. Buongiorno cari ascoltatori, martedì 2 ottobre, angeli custodi e due begli angioletti custodia fiorito da questa mattina. In carcere bisogna esultare, no? Soprattutto per i molti che restano fuori avendo fatto esattamente le stesse cose che ha fatto lui, che adesso fanno finta di niente. La politica non sapeva, la politica si distrae, la politica aveva detto che aveva tagliato fino all'osso. Balle, balle, balle, balle. Non esulto per il carcere, ma certo non dovrebbero stare dove stanno. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! E vengo anch'io, e di sicuro anche il motto delle liste per le regionali che ci sono in Sicilia, si vota il 28 ottobre, in 76 si ricandidano. Sono tutti corresponsabili di una regione che è in bancarotta, perché dichiara bancarotta tecnica, naturalmente nessuno dice così, vanta 16 miliardi di residui attivi, dei quali più di 2/3 sono falsi. Bancarotta! Cosa c'è per i privati che vanno in bancarotta? C'è il civile e c'è il penale, il carcere, invece loro si ricandidano! Ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! E consentitemi anche però di cambiare tono e di ricordare Shomo Venezia. Shomo Venezia, un mondo dove c'era solo l'odio e niente amore, come diceva Iannacci, è esattamente quello che ha conosciuto lui. Shomo Venezia è stato uno dei più grandi testimoni italiani della comunità ebraica che era stata deportata nei campi di concentramento nazisti. Shlomo Venezia è scomparso a 88 anni, aveva taciuto fino all'inizio degli anni 90, poi di fronte al fatto che l'antiebraismo, l'antisionismo, il razzismo antisemita tirava sulla testa, decise di cominciare a raccontare. Aveva fatto parte di Sonderkommando, cioè di quella parte di prigionieri che era purtroppo addetta dai nazisti nei campi a rimuovere i suoi compagni che erano stati gasati. E voglio rendere omaggio a lui e a tutti quelli che come lui hanno messo sulle proprie spalle il dovere del ricordo. Il dovere del ricordo è qualcosa di terrificante quando si prova la colpa di essere sopravvissuti, e ricordiamocelo, perché il Novecento alle nostre spalle è stato l'anno in cui, in nome della nostra superiore civiltà, ci sentiamo sempre superiori, non in termini finanziari agli anglosassoni, in termini di civiltà a tutti e così via, ma la nostra superiore civiltà, l'idealismo, i discepoli rossi e neri di Fichte dell'Ottocento hanno regalato al mondo gli autoritarismi rossi e neri, cioè il maggior numero di vittime per guerre in milioni di unità di tutta la storia dell'umanità. Questo sempre in nome del fatto che l'Europa produce la migliore civiltà al mondo, come ovvio, una civiltà dalle falci affilate in cui minoranze rosse e nere di avanguardie superomiste dicono sempre agli altri: ci pensiamo noi a dirvi cosa dovete pensare. Attenzione, perché le evoluzioni nel tempo di questa maniera filosofica e poi sterminatrice politica di pensare sono ben lungi dall'essere estinte intorno a noi, sono ben lungi dall'essere estinte. Allora, oggi non parliamo di questo, ma questo pensierino filosofico che era dovuto, anche perché appunto oggi festeggiamo gli angeli custodi, si accompagna ad alcune notizie. Ci occupiamo oggi di pensioni, ma lasciate che vi ricordi alcune notizie. Il bilancio di settembre per l'auto, per esempio, meno 25,7%, e stiamo parlando dopo un mese di agosto che ci aveva fatto tornare alle vendite del 1964. Tra due giorni si apre il Salone Nautico di Genova, nel settore della nautica l'anno va verso il meno 50%, e il leasing di auto, grazie alle luminose provvedimenti assunti dal governo Monti con la supertassa sulle barche, i leasing delle barche fanno meno 73%. È molto intelligente mettere tasse che producono una depressione così moltiplicata rispetto alla crescita reale di questo settore, e che naturalmente hanno anche visto svanire le pretese di incasso dello Stato. Lo Stato ha incassato meno di un quarto di quello che si aspettava da questa supertassa, che naturalmente molti di voi hanno applaudito all'inizio, perché avrete pensato: finalmente un governo che tassa i ricchi. No, è un governo che accentua la decrescita in questo e che incassa un quarto. Prima di mettere tasse pensando di prendere applausi demagogici, bisognerebbe conoscere gli effetti che ciascuna di esse produce sull'economia italiana, perché quando un settore va giù, a rimetterci è chi ci lavora, innanzitutto chi guadagna, suda sempre più a rischio un reddito che, grazie a queste belle tasse demagogiche, poi sparisce, e quindi l'effetto non è di far tassare i ricchi, che magari la barca la spostano in un altro paese, è quello di far perdere lavoro a chi ne ha più bisogno. Ed è sempre così che si risolve la giustizia, al contrario demagogica dello Stato ladro e tassatore. Allora, il tema del giorno. Ieri molti ascoltatori e molti lettori di giornali hanno fatto un salto sulla sedia leggendo l'anticipazione del Corriere della Sera. Che cosa diceva il Corriere della Sera? Vi squaderniamo gli effetti della fusione che è stata adottata a fini di semplificazione all'interno dell'INPS, che quindi diventa SuperINPS, dell'INPDAT, che è l'Istituto Previdenziale dei Dipendenti Pubblici, e poi dell'ENPAL, che è quello dello spettacolo. Ma il problema è ciò che l'INPDAT porta all'interno dell'INPS. Porta un enorme disavanzo patrimoniale per oltre 10 miliardi e anche una perdita nel conto economico per oltre 5 miliardi. Quindi sommati 16 miliardi di roba, e che anno dopo anno rischia di azzerare il patrimonio dell'INPS, e quindi risultato di chi leggeva, terrore, salto sulla sedia. Come si giustifica il fatto, diceva ieri il Corriere della Sera, che alla fusione questo sia l'apporto negativo dell'INPS? Per due ragioni: quello patrimoniale, perché e qui è lo Stato che come sempre mette avanti le mani e dice: avete voluto i tagli, ed ecco il risultato, perché con la compressione della sostituzione di coloro che vanno in pensione senza assumere nuova gente, il cosiddetto blocco del turnover, anno dopo anno ovviamente i contributi pagati dai lavoratori diminuiscono, e questa sarebbe la versione, per così dire, virtuistica per effetto dei tagli. La realtà è che da molti anni lo Stato non pagava i contributi nella misura del dovuto, ma meno di un terzo, e quindi anno dopo anno questa cosa si è accumulata. Bella la cosa, che lo Stato non paga i contributi per i propri dipendenti. Naturalmente per i privati, se non sei in regola col DURC, come raccontiamo tutte le mattine, non puoi più fare niente, ma lo Stato invece lo fa regolarmente, e che gliene frega a lui, mica è sottoposto alle stesse leggi dell'ordinamento, lui è la fonte dell'ordinamento, può essere ladro e per questo dire che gli unici ladri sono quelli che mette in carcere lui. Beh, questa è la simmetria di questo bell'ordinamento schifoso che ci ritroviamo in Italia. Allora, di fronte al terrore che abbiamo visto diffondersi online e con moltissime lettere che ci sono arrivate da parte di pensionati, pensionandi, che dicono: cosa rischiamo, rassicurateci e fateci capire bene di che cosa si tratta, ecco che siamo alla trasmissione di oggi. Allora, primi ospiti che abbiamo con noi Carla Cantone, che è segretario generale dello SPI-CGIL, che è il sindacato pensionati italiano della CGIL. Buongiorno e grazie. Buongiorno, Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno. Buongiorno, io purtroppo sto prendendo un treno. Vabbè, intanto salga sul treno e speriamo che il treno non faccia molte gallerie. Intanto chiediamo a Carla Cantone, che ci deve lasciare tra pochi minuti. Allora, lo sapevate? Alcuni dicono di sì. B, cosa si rischia secondo il sindacato dei pensionati della CGIL? C, che cosa bisogna fare secondo lei? Ma guarda, noi abbiamo sempre denunciato una situazione abbastanza allarmante, ci preoccupava attraverso le nostre commissioni di vigilanza, ci avevano sempre rassicurato che le cose sarebbero andate a posto. Ora, al di là di tutto questo, credo che la cosa più importante invece di pensare di farci ulteriormente del male, la cosa importante è quella di verificare quali sono i debiti, quali sono i crediti che dobbiamo recuperare e risolverli, perché occorre risanare, l'unico modo per evitare il panico che c'è tra le persone. Noi questo pretendiamo, perché ovviamente è assurdo che ci sia questa evasione da parte della pubblica amministrazione e dell'amministrazione dello Stato. Poi non riguarda solo l'evasione, i problemi sono molti, la diminuzione degli organici, i tagli agli enti locali, però mi pare che in questo periodo dove si parla molto dei costi della politica e dei vergognosi sprechi, questa notizia ci fa rabbrividire ancora di più. Quindi la cosa da fare immediatamente è sanare i debiti, così tranquillizziamo le persone. Naturalmente, dottoressa Cantone, non tocca a me ricordarla che lo Stato, come non paga i debiti commerciali alle imprese, difficile che abbia voglia e tempo e risorse per pagare i debiti che deve a un'altra amministrazione sempre pubblica. Perché... se la deve far venire la voglia, se la deve far venire, perché è assurdo fare una grande battaglia contro gli altri, poi tu che denunci sei il primo ad evadere. Noi pretendiamo trasparenza da parte delle imprese, ma proprio per questa ragione bisogna pretendere che anche lo Stato sia altrettanto attento, mettiamola così, per essere educati, va bene? Io sono integralmente d'accordo con lei, qualunque manifestazione facciate per questo vengo in prima fila. Senta, in passato... Ma la chiamerò! Ah no, ma, lei ma guardi, è sempre molto attento. Vengo perché su questo veramente depredare i lavoratori con lo Stato, che voglio dire, lo Stato dà la garanzia ai suoi lavoratori per tante cose eccetera. Anche che adesso ringrazio. Che adesso conosciamo, che adesso apprendiamo che lo Stato non paga i contributi nemmeno ai suoi, cioè è veramente ridicolo. Ma qual è la credibilità di un ispettore fiscale se becca un evasore privato e quello gli dice ma sei la tua amministrazione per prima che fa lo stesso? Ma detto questo, dottoressa Cantone, tante volte in passato, cioè numerose volte, non tante ma è accaduto, si è ricorso alla copertura di fondi in perdita per alcune categorie, è capitato con i dirigenti per esempio, no? Quando venne anche quell'istituto venne inglobato nell'INPS, di ricorrere all'attivo del conto economico di gestione anno per anno di altri fondi per ripianare. Bisogna fare così anche per lo Stato secondo lei? No, io penso che bisogna mettere tutto sul tavolo, mettere tutto in trasparenza e mettere a posto le carte, la metto così. Benissimo, allora appuntamento, perché speriamo che non ci sia bisogno di protestare, però temo che l'entità del debito accumulato dallo Stato sia molto ingente. Grazie a Carla Cantone e sentiamo invece Giuliano Cazzola che cosa ci dice. Si sapeva, non si sapeva, è ipotizzabile che adesso lo Stato metta mano al portafoglio per sanare miliardi e miliardi di contributi che esso stesso non ha pagato? Insomma, che cosa si può immaginare? E poi soprattutto iniziamo a rassicurare o a non rassicurare i dipendenti pensionandi del settore pubblico, rischiano qualcosa secondo lei? No, guardi, allora innanzitutto secondo me nel pezzo del Corriere della Sera c'erano molte inesattezze, perché non è un problema di liquidità, lei mi insegna che in un bilancio pubblico i crediti si scrivono in attivo, quindi se l'INPDAP doveva ha un credito nei confronti delle amministrazioni pubbliche, queste vanno scritte in attivo, quindi non è l'evasione contributiva delle amministrazioni pubbliche che ha provocato un disavanzo dell'INDAP che era noto, e peraltro è singolare che diventi preoccupante nel momento in cui entra l'INDAP, entra nell'INPS, è incorporata nell'INPS, perché l'INDAP faceva comunque parte del sistema pensionistico e quel disavanzo era un disavanzo conosciuto. In larga misura questo disavanzo dipende da situazioni diciamo strutturali, perché in questi anni sono diminuiti i dipendenti pubblici, nel senso che c'è stato il blocco del turnover, e molte strutture pubbliche sono state privatizzate, quindi i loro dipendenti sono, pensi alle municipalizzate che sono diventate SPA, i loro dipendenti sono passati dall'INPDAP all'INPS. Ma la cosa che va detta che c'è un problema diciamo di ristrutturazione del debito dell'IRI. Perché? Aspetti un secondo, prima di andare al problema della ristrutturazione del debito complessivo. Ma lo so. Ma gliela voglio far dire. No, ma è per capire, perché subito mi è arrivato un SMS di un ascoltatore che le chiede. Ma ieri però il Corriere della Sera scriveva esplicitamente che anche dopo il 96 le amministrazioni dello Stato, e testuale dell'articolo Corriere della Sera di ieri, hanno versato solo la quota della contribuzione a carico del lavoratore, cioè l'8,75%, e non invece la quota a carico dello Stato pari al 24,2%, cioè versavano un terzo del dovuto. Questo è vero o non è vero secondo Cassola? Guardi, io a me non risulta che dopo il 96 facessero questo, fino al 90, alla riforma Dinda l'hanno fatto. Però cosa succedeva? Succedeva che le pensioni erano nello stesso conto degli stipendi, per cui le amministrazioni dello Stato, perché non c'era la cassa degli statali che è stata istituita nella riforma del 1995, trattenevano la contribuzione a carico del lavoratore. Poi quando il lavoratore cessava dal servizio gli pagavano la pensione, gliela pagavano loro, non gliela pagava nessun altro, no? Era una specie di continuità tra stipendio e pensione. Nel 96, dopo la riforma Dini, viene istituita la cassa, e istituendo la cassa la legge prevedeva che lo Stato conferisse ogni anno 14.000 miliardi di vecchie lire a copertura dello stock di pensioni in essere. Nei primi anni 2000, adesso non mi ricordo se c'era un governo di centrodestra o di centrosinistra, per far bella figura col debito pubblico, questi trasferimenti, quindi un credito che l'IMDA vantava nei confronti dello Stato, sono diventati anticipazioni di tesoreria, sono diventati prestiti dello Stato all'IMDA, e con un artificio legislativo. La stessa cosa è successa per l'INPS fino al 1998, l'assistenza veniva data dallo Stato, coperta dallo Stato un po' con trasferimenti, un po' con anticipazioni di tesoreria, tanto che l'INPS aveva accumulato 160.000 miliardi di vecchie lire di debito, e il Ciampi, che allora ministro del Tesoro, azzerò questo debito, e l'INPS si trovò improvvisamente da un debito in passivo enorme, si trovò in attivo. Cioè, vediamo anche queste, come pure un'altra inesattezza che ha fatto ieri il Corriere, è di dire che l'INPDAP è generosa con i pubblici dipendenti, nel senso che gli dà prestiti, mutui. Il fatto è che quella è una prestazione dell'INPDAP finanziata dalla contribuzione delle amministrazioni e dei lavoratori. I pensionati pagano lo 0,15, i lavoratori pagano lo 0,35, quindi non c'è l'albero della cuccagna. No, però sono molto severo in queste cose. Certo, un conto è essere severi, altro conto poi è dare così l'enfasi giornalistica al fine di fare gran cassa. Però l'entità, ecco, diciamo, una volta spiegato che il passivo patrimoniale di oltre 10 miliardi ha queste spiegazioni anche per fare i fighi, per fare i fighi con i conti pubblici, allora si cambia la posta tecnica, eccetera eccetera, però resta questo fatto da chiarire, che per me è fondamentale se lo Stato ha pagato i suoi contributi oppure no. Però detto questo, però lei Cazzola, qui si parla anche di poi un disavanzo di gestione, cioè quello annuale superiore a 5 miliardi, che non è po' da ridere. No, guardi, poi è vero, per le questioni strutturali che ci sono nel pubblico impiego, peraltro se lei l'INPS aveva sempre fatto anche delle proiezioni per gli anni a venire, e il dato era nel giro di qualche anno di arrivare a un passivo di 12 miliardi, però ecco, diciamo, nel conto delle pensioni questa cosa c'era, non è che è diventata rilevante perché va a sporcare il bilancio dell'INPS, c'era. Se lei vede la relazione del nucleo della situazione della spesa pensionistica, vedrà che il complesso delle gestioni pensionistiche sono in passivo proprio per questo fatto dell'INPDA. Esatto. Eccoci qua, tornati 9.33.22 per chi ci segue in diretta. Un saluto anche a chi ci segue nella replica. Ci stiamo occupando degli effetti del buco di conto economico e del disavanzo patrimoniale che l'INPDA porta in INPS. Si sapeva, dicono tutti, giusto, però ieri il Corriere della Sera rilancia. Siamo a 16 miliardi, di cui oltre 10 per la parte del Pregresso, e oltre 5 miliardi e 8 nel conto economico. Rischiano qualcosa i lavoratori? No, questa è la risposta che viene dal governo. È vero che per anni e anni lo Stato non ha pagato i contributi, tutti i contributi dovuti ai suoi dipendenti. Il governo, nella nota di ieri emessa dal Fornero e Grilli, dice non risulta. Il Corriere della Sera oggi, a firma di Enrico Marro, invece, documenti ufficiali alla mano, continua a dire dal 96 a oggi lo Stato spessissimo ha evaso i due terzi dei contributi che doveva versare. Intanto, prima che di tornare al nostro ospite Giuliano Cazzola, sentiamo che cosa ha detto Alessandra Schepisi, nostra collega di GR24, il commissario del Superinps, Mastrapascu. L'INPDAP è strutturalmente in disavanzo perché i lavoratori attivi diminuiscono e aumentano i pensionati. L'effetto sui conti dell'INPS è un effetto prettamente esclusivamente contabile, perché finanziariamente lo Stato ha sempre fatto fronte al disavanzo dell'INPDAP e sempre lo dovrà fare, essendo lo Stato il datore di lavoro dei dipendenti pubblici. Nessun allarme, nessuna preoccupazione. L'INPDAP, confluito nell'INPS insieme all'EMPAS, farà dell'INPS, del nuovo INPS, un ente virtuoso, più efficiente, più efficace, più attento, più trasparente. Il dato contabile è quello conosciuto, il dato finanziario, ovvero si possono e si debbono pagare le pensioni, assolutamente sì. C'è chi parla addirittura di evasione di Stato, di mancato versamento dei contributi. Può essere che qualche amministrazione pubblica non abbia, così come ci sono i privati evasori, così ci può essere stato non qualche pubblico evasore, perché non ha, qualche pubblico che negli anni non è stato così corrente nei versamenti. L'integrazione con l'INPS farà sì che anche quello che mai potesse essere successo, ma ancora oggi non abbiamo evidenza, potrà succedere. Scusate, vi faccio notare, cari radioascoltatori, Mastrapascua che dice: così come c'è il privato evasore, sta dicendo c'è anche il pubblico. Si corregge, si ferma e dice: no, non può esistere il pubblico evasore. Ma come non può esistere? Quando lo Stato è ladro, bisogna chiamarlo per nome. Cazzola dice: non mi risulta. Anche la nota del ministro Fornero e di Gridieri dice: non ci risulta. Però sta di fatto che Enrico Marro oggi torna a citare documenti, e torna a citare documenti che erano del commissario dell'INPDAP negli anni pregressi, nei quali si attesta che invece la pratica dell'evasione contributiva da parte delle amministrazioni pubbliche era una pratica diffusa, molto diffusa. E sentite Mastrapascua che, mentre la sta del tutto legittimamente, giustamente, equiparando a quello dell'evasione contributiva che è perseguita dai privati, si blocca e dice: beh, no, insomma, no, ci sarà qualche amministrazione. Lo Stato, quando si comporta da ladro, non è mai ladro, perché siccome l'ordinamento lo fa lui è virtuoso comunque. Questa è la vicenda in tutto questo, che è da mettere a posto, rassicurando i lavoratori, che a me sembra molto significativa. Allora, eravamo rimasti con Cazzola, sperando di averlo ancora in linea. Che bisogna fare? Allora, guardi, non è sbagliato tecnicamente il discorso che fa Mastrapascua, perché un conto è nascondere reddito e non pagare contributi per nascondere reddito, stipendi, lavoratori. Un conto è riconoscere il debito, iscriverlo in bilancio e non fare l'operazione contabile. Insomma, lei è troppo esperto, no, di contabilità. Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, è chiaro che l'INPS ha in bilancio, scrive in bilancio come entrati, crediti delle amministrazioni pubbliche. Chiarissimo. Ovviamente c'è un problema di liquidità, però essendo le prestazioni pensionistiche spese obbligatorie, vanno comunque pagate. Poi è chiaro che c'è un disordine nella contabilità pubblica. Io ricordo che nel 1998 lo Stato ripianò 160.000 miliardi di vecchie lire dell'INPS, costruite ad arte col meccanismo dell'anticipazione di tesoreria. Questo perché l'anticipazione di tesoreria sono sotto la linea del debito e lo Stato fa bella figura, esatto, o fa una figura meno peggiore nei confronti del debito pubblico. Esatto. Questo è, se vuole, è un mal costume questo. No, è uno dei tanti artifici contabili con i quali si fa finta di avere meno debito di quello che si abbia, certo, davvero, per essere chiari, ecco. Cosa in cui lo Stato, la contabilità pubblica, eccella in questo tipo. Certo, fanno i salti mortali per fare operazioni di questo genere. Però dal punto di vista finanziario, bisogna ripianare oppure no, secondo lei? Ma guardi, secondo me ripianare è sempre utile. Vuol dire però avere sul debito pubblico 7-8 miliardi in più, perché vuol dire riconoscere che le anticipazioni sono trasferimenti, e avere un debito pubblico che invece di essere il 120 percento del PIL diventerà il 121, il 120. Eh sì, con 7 miliardi è un 7 miliardi sono mezzo punto di PIL. Se parliamo di PIL, se parliamo dei 15 miliardi complessivi dell'INPS è un punto in e più. Però si fa finta di niente. Giuliano Cazzola, ma non sarebbe meglio, voglio dire, come si pretende che facciano tutti e come devono fare i privati, ammettere tutti i debiti, i 7 punti di debito con le imprese commerciali, crediti fiscali, il punto di debito dell'IPA, perché far finta di no per essere più virtuosi? E lo so, ha ragione, cosa vuole? Ci si barcamena purtroppo con queste cose, sa? Diciamo che quello che ha fatto la Grecia. Diciamo che il duo ministeriale, Giuliano Cazzola ministro e Giannino suo umile tirapiedi, direbbe agli italiani, ai nostri partner europei, ai mercati: noi preferiamo dirvi la verità e fare una grande operazione di trasparenza sui conti. Io non sono ministro, non so se lo diventerà. No, non credo proprio, si figuri. Allora, intanto io saluto e ringrazio Giuliano Cazzola e abbiamo con noi adesso Iole Vernola, che è responsabile delle politiche del lavoro e welfare di Confcommercio. Direte voi, vabbè, ma che c'entra adesso Confcommercio, visto che stiamo parlando del settore pubblico? Ho capito, ma non avete capito, visto che si va verso le unificazioni delle gestioni qua, qui il problema è che i ripiani possono avvenire o perché lo Stato ci li mette i soldi in più, e vedete che lo Stato ha molte tecniche contabili per tentare di negare che il debito sia contratto e che lo deve assolvere lui, oppure con i ripiani da avanzi di altri fondi. State molto attenti, perché il problema riguarda tutti i lavoratori. Allora, Iole Vernola, che pensa di questa scoperta, non scoperta, ma insomma che è tornata in prima fila grazie al Corriere della Sera di ieri, del disavanzo dell'Istituto Previdenziale Pubblico? 15 miliardi, quasi 16 sommando la parte corrente, 5,8 e oltre 10 miliardi di quella patrimoniale. Che pensa? Buongiorno. Ma noi pensiamo quello che abbiamo detto anche ieri, e peraltro avevamo già evidenziato a giugno, abbiamo tenuto un'audizione alla Camera. Perché insomma i numeri erano noti, segnalando che il tema andava affrontato per tempo e che si sarebbe insomma prodotto questo risultato. Peraltro devo dire che come parti sociali, insieme a altre organizzazioni, a tutte le altre organizzazioni, siamo presenti nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, e lo stesso Consiglio di indirizzo e vigilanza insomma ha segnalato ai ministeri competenti e ha chiesto un intervento. Cioè ha chiesto di non lasciare che questa situazione, come dire, resti gestita di volta in volta, e poi vedremo cosa accade, perché un'incidenza così significativa sul patrimonio di un ente come l'INPS, insomma, rischia veramente in pochissimi anni di andare a depauperare, perché qui è un problema di incidenza patrimoniale, no? È chiaro che le pensioni stagano, insomma adesso al momento non creiamo allarmismi, chiaro che non succede nulla domani mattina sulle pensioni, però intaccare il patrimonio peraltro costruito su contributi versati da lavoratori e imprese private, perché questo è il punto che lei giustamente evidenziava, insomma con una partita di giro che viene coperta di volta in volta, ma che rimane come problema aperto, non ci sembra la soluzione migliore. Ecco, come diceva correttamente anche lei, se qui c'è un punto che va coperto, c'è un debito riconosciuto, bene, si mettano in atto dei correttivi per evitare di arrivare, ripeto, a depauperare quello che è lo stato patrimoniale dell'INPS, che faticosamente si è messo in equilibrio, no? Perché sappiamo tutti cosa è costato al paese l'ultima riforma delle pensioni, così come quella precedente. E tra l'altro i conti della nuova INPS danno un preventivo del 2012 in cui entrate accertate 378 miliardi, spese 386, quindi effettivamente si torna a una situazione di squilibrio. Questo è il motivo, secondo me, non per generare l'allarmismo, quindi sia chiaro, nessuno rischia la pensione, però il problema è che noi torniamo su questo punto dell'INPS in equilibrio, che io per molti anni ho tentato di spiegare non è in equilibrio affatto, perché dipende appunto da tecniche contabili che tendono a vedere un disavanzo non contabilizzato, ma che in realtà bisognerà affrontare, ed eccoci che puntualmente poi ci troviamo puntualmente a dover fare i conti con questo e a non dover abbassare la guardia. Quindi secondo me ha molto ragione Iole Vernola, Confcommercio, a dire qui bisogna intervenire, non metterci una pezza contabile sopra. Esatto, perché altrimenti affronteremo il problema quando saremo già in una situazione noi siamo passati da un valore, insomma, di chiuso di patrimonio dello scorso anno di 41 miliardi, e oggi l'INPS ha una previsione di chiusura patrimoniale con 25. Con 25, insomma. Esattamente. Quindi come si vede il margine patrimoniale a furia di perdite di questo tipo, di poste patrimoniali, si erode molto, molto, molto velocemente. Io ringrazio anche Iole Vernola. Prima di dare la parola agli ascoltatori, una riflessione, perché molti di voi sono giustamente convinti che, avendo innalzato l'età pensionabile di brutto con la riforma Fornero, dopo che i partiti per anni avevano negato l'opportunità di questo intervento, cioè in buona sostanza per far sparire i trattamenti le pensioni di anzianità e pensare solo alla vecchiaia, innalzando nel tetto, visto i requisiti, visto che in termini di occupabilità la vita media si è allungata, bla bla bla, cosa che abbiamo fatto, molti di voi sono convinti che l'equilibrio a questo punto sia arrivato. Non è così, perché noi siamo stabilizzati a una media superiore di 2,5 punti rispetto a quella degli altri paesi europei di spesa previdenziale, siamo intorno al 16% di PIL annuale. Faccio due domande: ma voi siete veramente convinti, dopo che abbiamo tirato una linea nella sabbia e tutti quelli che avevano 18 anni di contributi alla riforma Dini hanno una pensione retributiva che rispetto a quella che abbiamo stabilito per chi viene dopo, cioè quella contributiva, io ero favorevole, ma il regalo della retributiva è molto forte, soprattutto per le fasce alte. Domanda che vi faccio: ma voi siete convinti che è giusto, è costituzionale, è equo la seguente cosa? Sapete quanti sono gli italiani che hanno un trattamento previdenziale superiore ai 4.000 euro netti al mese? 4.000 euro. Scelgo questa quota perché il 51% delle famiglie italiane, secondo l'anagrafe tributaria, ha un reddito di 1.900 euro, intorno a 1.900 euro mensili. Allora scelgo una quota più che doppia apposta. Sapete quanti sono gli italiani che hanno una pensione che è tutta retributiva a questo punto che quindi rispetto alla contributiva è un regalo? Perfettamente coerente rispetto alle leggi in vigore, ma superiore ai 4.000 euro sono 513.000. E sapete quanto ci costa nel bilancio 2011 previdenziale aggregato le pensioni superiori ai 4.000 euro, quelle di questi mezzo milione di italiani, che ripeto non hanno commesso alcun delitto né reato, sono perfettamente in regola come funzionava il sistema ai loro tempi? Ci costano 9 miliardi e mezzo di euro. Se sommiamo a questo mezzo milione e poco più di italiani, coloro che hanno un trattamento previdenziale superiore ai 3.500 euro al mese, andiamo a oltre 12 miliardi l'anno. Allora, io faccio una semplice domanda: ma è così inipotizzabile secondo voi in ascolto? Perché non voglio dirvi come la penso io, vediamo come la pensate voi. Nei prossimi giorni continuate a mandare lettere e a rispondere su questo, può essere che ci facciamo un'intera puntata, ma è così impensabile, visto che noi abbiamo condannato come era giusto un'intera generazione e generazioni a venire, se anche lavorassero e non lavorano perché non partecipano al mercato del lavoro, perché sono precari e così via, a non andare oltre una pensione che non arriverà a 1.500-1.600 euro al mese, e contemporaneamente andiamo avanti per anni e decenni con pensioni oltre 4.000 che con la logica attuale sono regalate? Ecco, io vi pongo questo interrogativo aperto. La mia opinione, forse alcuni si stupiranno perché dicono sei liberista, mercatista eccetera, che c'è un problema di equilibrio attuariale innanzitutto, ma anche di giustizia intergenerazionale. No, io sono per intervenire su un argomento come questo, sono per intervenire anche sulla pensione di reversibilità, secondo esempio, cioè noi abbiamo adottato l'occupabilità e l'età media per i trattamenti di convergenza tra pensioni di anzianità e di vecchiaia. Domanda: perché non dobbiamo farlo con la reversibilità e che una 25enne che si sposa un 80enne e poi eredita il trattamento, anche lì retributivo, ed è un regalo rispetto al contributivo di chi oggi non riesce a lavorare magari per decenni e decenni? E non sono d'accordo, bisogna vedere quanti anni ha la giovane signora e se può lavorare o meno. This is the end, come vedete. Che volete, di cosa vogliamo parlare? Del rinvio a giudizio del sistema penati PD che fa sempre finta di non essercene tangenti e ce l'ha fino al collo San Giovanni eccetera eccetera, e del fatto che scopriamo ogni giorno adesso che in ogni ente locale c'erano abbuffate e greppie, come naturalmente si sapeva, ma a voi dicono sempre invece che se gli tagli un euro devono tagliare i servizi, perché sono a che noi abbiamo accettato che questo Stato spadroneggi e ladroneggi. E in questa vicenda, come avrete capito, la cosa che più mi fa schifo è che chi persegue gli evasori privati lo faccia a casa sua, ma naturalmente al di sopra della legge. Questo è il punto di fondo. Tanto si trova sempre un artificio per dire che poi lo faceva per abbellire i conti, cioè a fini virtuosi. Nicola da Napoli, che pensa Nicola? Allora, che penso? Proprio ricollegandomi a quello che dicevi adesso, Giannino, c'è una ti faccio anche i complimenti per la trasmissione, è che non è possibile da 20 anni, cioè da quando capisco qualcosa di politica, che succede sempre così, da Tangentopoli ad oggi, no? Gli scandali che succedono per quello che rubano. Cioè, come lo Stato controlla noi, noi dovremmo controllare lo Stato, a tutti i livelli, dal comune all'amministrazione centrale. Cioè, tutte le amministrazioni dovrebbero rendere conto ai cittadini, ma ci dovrebbe essere un controllo da parte di terzi, cioè revisori dei conti che dovrebbero andare a specificare costo per costo. Non è possibile 2.800 euro per un chilometro, come avviene per esempio nella regione Liguria, per la strada, cioè costa 2 euro la benzina, si fa 10 chilometri con qualsiasi macchina. Cioè questo è... Nicola, Nicola, hai ragione, non possiamo scoprire dopo anni che lo Stato non ha pagato i contributi ai suoi dipendenti. Alessandro da Pavia, che pensa? Cosa penso? Parlo innanzitutto con un condannato a 36 giorni di carcere. Come mai? Per non aver pagato, per aver omesso, anzi errato, il conteggio dei contributi INPS per 13 euro. Ah, per 13 euro le hanno dato 36 giorni di carcere? Esatto. Allora, e quanti secoli ne devono dare allo Stato che non li ha versati? Ma, dottor Giannino, ascolti, 13 euro che io in realtà ho versato, un euro in più perché bastava guardare gli altri F24, c'è stato un errore. I solerti dipendenti pubblici mi hanno condannato a 36 giorni di arresto, ma sa cosa ci ha messo la sentenza a arrivarmi a casa da Pavia a Scaldasole, che sono 18 chilometri? 13 mesi. 13 mesi, si renda conto? Il mio Stato mi vuol veder morto. Ecco quello che è, il mio Stato. Comunque, ragazzi, avete capito? Cioè, per 36 giorni e per una cifra ridicola, 13 euro, 36 giorni di carcere, lo Stato non paga miliardi di contributi sui suoi dipendenti e naturalmente dice di farlo per virtù. Perché adesso mica vorremmo davvero che ripiani subito, come ci ha spiegato Cazzola, gli anticipi sono sotto la linea del debito e quindi mica se mettiamo mano e ammettiamo davvero che il debito c'è stato, cioè che i versamenti non sono stati fatti, certo lo Stato non va in carcere, mette in carcere noi ovviamente, però in più tenta anche di spiegarci che se non l'ha fatto era perché era virtuoso. Bah, roba da pazzi. Chiara da Milano, prego Chiara. Buongiorno, mi faceva piacere condividere con voi l'esperienza di mio padre che si è laureato tardi in architettura, ma faceva il designer già da prima, siamo tutta una famiglia brianzola, quindi nell'industria del legno. Ha pagato per 15 anni i contributi alla Cassa degli Artigiani. Quando si è laureato ha cambiato cassa e si è iscritto alla Cassa degli Architetti e degli Ingegneri. Quando è arrivato il momento dell'età pensionabile finalmente agognata, gli è stato negato perché la Cassa degli Ingegneri, Architetti e gli Ingegneri non riconosceva i 15 anni della Cassa degli Artigiani. Oh. E gli hanno detto si dovrebbe ricongiungere i contributi alla contribuzione alle due casse. Naturalmente il ricongiungimento era molto oneroso, non era gratuito. Il ricongiungimento era sembrava un'operazione fatta quotidianamente da questo ente. Abbiamo chiesto il conteggio che è arrivato dopo un anno. L'impiegato dell'INPS era anche un po' imbarazzato, probabilmente temeva una reazione violenta. Gli hanno chiesto 750 milioni 750 milioni di lire, ovviamente, sì, non sì, di sì, euro, sì, però sì, che sono sempre una bella cifretta. Fa ridere, ma è drammatico. Mio padre è probabilmente per indole brianzola, con senso pratico a mille, è riuscito giusto a guardare questo impiegato e dirgli ma le pare che se avessi 750 sarei milioni, qua e mi sembra Chiara adesso per... purtroppo ti devo ringraziare perché mancano 2 secondi, non posso darvi appuntamento a Milano. Stato ladro.